una linea di pensiero che attraversa molti capi di Stato dei paesi africani sostiene che appunto quando si parla di sviluppo dell'Africa, di sviluppo economico, di sviluppo sociale e politico del continente, non si può non parlare della necessità di risolvere i conflitti che sconvolgono questo continente. Conflitti che con il macabro corteo, per usare le parole del Presidente della Commissione dell'Unione Africana, il maliano Conaré, con il loro macabro corteo di violenze, di vittime, di profughi e di rifugiati, pongono serie ipoteche allo sviluppo di paesi, ma anche di intere regioni. Quindi, partendo da questo presupposto, in questi 3 giorni di riunione l'Unione Africana affronterà i problemi legati ai conflitti, alla loro soluzione e alla loro prevenzione. È un tema molto delicato, è un tema che va a braccetto con la creazione del Consiglio di Pace e Sicurezza creato dall'Unione Africana lo scorso maggio, un organo pensato sulla falsariga del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, però se vogliamo ancora più avanzato, perché se riusciranno a trovare i fondi necessari, questo Consiglio dovrebbe agire insieme a una forza di intervento rapido, una vera e propria brigata militare composta dai paesi africani che insieme al Consiglio di Pace e Sicurezza dovrà intervenire quando si presenta la necessità. Questo caso del Darfur, per dire, è un primo banco di prova e infatti in queste ore si potrebbe decidere l'invio di poche centinaia di soldati dell'Unione Africana, molti ruandesi, nigeriani hanno già dato la disponibilità per garantire la sicurezza agli osservatori. Di fatto questo doppio rapporto di interferenza politica e militare per prevenire e per risolvere i conflitti si scontra con 2 problemi. Il primo è meramente pratico ed è il reperimento di fondi. I paesi africani, molti, non tutti, hanno a che fare con casse disastrate e stretti come sono dai debiti esteri e dalle politiche imposte da Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale che continuano a suggerire di tagliare le spese, quindi i soldi da investire in questi progetti sono pochi. E poi un altro problema più sottile e spesso poco considerato è il fatto che all'interno della stessa Africa vi siano paesi che guardano questo tipo di politica continentale come ne temono l'ingerenza, ecco. I conflitti africani sono per il 90%, forse anche il 99%, conflitti interni, o meglio apparentemente interni, non sono conflitti tra stati, ma conflitti tra governi e ribellioni, opposizioni, movimenti etnici, eccetera. In realtà poi dietro questi conflitti si nascondono spesso interessi economici, strumentalizzati da paesi circostanti, da paesi stranieri, da interessi stranieri. Comunque questa peculiarità del fatto di conflitti interni fa sì che alcuni governi non propriamente democratici, non propriamente liberali africani vedano l'interesse dell'Unione Africana a risolvere questi conflitti un po' come il fumo negli occhi, perché vorrebbe dire dare una dignità a una parte piuttosto che un'altra, riconoscere un movimento ribelle anche a livello politico, mentre normalmente certi stati, in certi paesi si tende a sminuire il ruolo politico di questi movimenti. Questo è probabilmente uno degli ostacoli più grossi che gli africani si troveranno a combattere internamente all'interno del continente. Per l'altro ostacolo, quello economico, la comunità internazionale dovrebbe questa volta, visto che in termini di trattati commerciali non riesce a farlo, aiutare davvero l'Africa senza politiche assistenziali, ma in questo caso fornendo denaro sì, ma fornendo appoggio logistico e addestramento per la creazione di questo esercito africano, che è forse l'unica vera maniera per risolvere anche alla base, alla radice, questi i conflitti del continente, anche perché l'Unione Africana ha un percorso molto chiaro in testa, che è quello di lavorare molto sulla prevenzione. Ha già iniziato, è iniziato praticamente all'indomani della sua creazione 3 anni fa, ha iniziato sostenendo il principio che nessun governo in Africa deve essere più preso con le armi. Questo è un principio che, come dicevo prima, si scontra con molti governi africani, dove chi ha il potere sono oligarchie che hanno spesso preso la guida del paese con le armi e che sono lì da 30, 40 anni, 20 anni, 18, 19 anni, quindi dove il concetto di alternanza ancora è lontano.